in the face of our common dangers. It's been unbelievable. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. We will engage in a global effort to mobilize $100 billion in financing by 2020, if and only if it is part of a broader accord that I've just described. Ma non fatevi ingannare troppo da questo tono apparentemente fattivo, fattuale, che sembra aver speso in questo particolare passaggio del discorso Barack Obama pochi minuti fa a Copenaghen. Di fatto questo ritorno a Copenaghen, dove l'ultima volta gli è andata tutt'altro che bene, ricorderete, non è molto tempo fa che il presidente arrivò a Copenaghen accompagnato dal plauso e dall'entusiasmo americano per portare a casa le Olimpiadi a Chicago, tornò invece con le pive nel sacco, non riuscì neanche a qualificare la sua città per la scelta finale, fu una sconfitta bruciante, una delle prime e più inattese sconfitte di Barack Obama. In questo caso, certo, il viaggio presentava meno rischi, se non altro perché la situazione è così brutta che certo non si potranno addossare in particolare a Barack Obama i risultati assai dubitabili e per ora apparentemente pessimi raggiunti dal vertice di Copenaghen. Obama di fatto stilisticamente ha provato a fare Obama, questa è la cosa che possiamo osservare a margine del discorso che ha appena pronunciato, ovvero ha provato ancora una volta a essere ispirazionale, a essere fonte di ispirazione, però lo ha provato a fare laddove in realtà in questo momento, in questa poi rincorsa frenetica e anche un po' farneticante che dopo due settimane di vertice i responsabili della questione climatica mondiale stanno mettendo in scena in queste ultime ore, no? Nella capitale danese, in realtà bisogna essere sostanziali, ovvero bisogna mettere sul tavolo delle proposte sì o no, prendere o lasciare, e in questo caso l'impressione è stata che Barack Obama di proposte tangibili ne avesse abbastanza poche, al di là di quella strettamente economica, su cui poi addirittura sembra disposto a mettere un ulteriore chip a quei 100 miliardi di dollari annunciati da Hillary Clinton poche ore fa in favore dei paesi in via di sviluppo, affinché si iscrivano anche loro a questa comprensibile, necessaria cooperazione sulla strada di una energia pulita. Ma Obama ha cercato di fare quello che sa fare meglio, cioè di essere teatrale, coinvolgente. Il problema è che qui non siamo a Oslo, non siamo alla consegna del Nobel, di una statuetta prestigiosa per atti, operazioni, apparentemente nel caso di Obama anche questo è dubitabile, già consumate. Qui siamo invece sull'orlo, no, di un precipizio, come ci continuano a ripetere tutti i leader. La sua chiamata a corresponsabilità, che poi è un po' uno dei marchi di fabbrica di Barack Obama, no? Dire guardate che siamo tutti nella stessa barca e tocca che tutti remiamo, la cooperazione, insomma parole che sono un po' la parola d'ordine di questo presidente da quando abbiamo cominciato a conoscerlo pubblicamente ad alto livello nella sua rincorsa alla Casa Bianca, hanno risuonato anche questa mattina a Copenaghen. Di fatto è stato piuttosto freddo l'applauso che ha salutato alla fine il discorso del presidente Obama. We are ready to get this done today. But there has to be movement on all sides to recognize that it is better for us to act than to talk. It's better for us to choose action over inaction, the future over the past, and with courage and faith, I believe that we can meet our responsibilities to our people and the future of our planet. Thank you very much. Ecco, questo è l'applauso che chiude l'apparizione di Barack Obama. Ha detto: qui si può prendere una decisione storica per i nostri figli e per i nostri nipoti, o semplicemente prendere tempo, quello che secondo Barack Obama, come ha ripetuto a più riprese nell'ambito del suo discorso, è proprio la cosa che manca, non c'è più tempo per discutere. L'America, ha detto ancora Obama, ha fatto la sua scelta, noi faremo quello che abbiamo detto, quindi sottolinea il riposizionamento degli Stati Uniti d'America dopo, no, gli imbarazzi, un certo negazionismo anche di Kyoto, il nuovo posizionamento dell'America dalla parte dei buoni, dalla parte di quelli che hanno voglia di fare, di creare, di inventare, di cooperare affinché il pianeta non soffra più di quanto già fa. Il problema è che, insomma, molti guai sono stati già consumati. Poi ha detto ancora Obama: l'America ha fatto la sua scelta, faremo quello che abbiamo detto, siamo pronti a farlo oggi e dobbiamo riconoscere che è meglio scegliere il futuro piuttosto che restare attaccati al passato. Non è difficile anche in questa frase leggere una frecciata rivolta naturalmente alle precedenti amministrazioni e altre frasi prese così nel discorso. Siamo qui non per parlare ma per agire, e questa è una frase a doppio taglio, nel senso gli potrà anche essere ripresentata, no, come richiesta del conto dagli ambientalisti una volta che Obama rientrerà negli Stati Uniti d'America. E poi ha ancora detto che un accordo va trovato anche se non perfetto, il tempo sta per finire, meglio per noi agire, scegliere il futuro, non ricadere nelle divisioni e tentare di partecipare, cedere la tentazione di partecipare a quella che lui chiama un momento, un'impresa storica. Non sareste qui se non fosse convinti che il pericolo è reale, il cambiamento climatico non è fantascienza, ma è scienza, è reale, come continua a garantire peraltro il principale esponente, no, politico americano sull'argomento, ovvero Al Gore, che anche lui ha fatto la sua brava apparizione a Copenaghen, in quella che è stata un po' il versante più VIP magari di questo appuntamento, su cui poi tanti ragionamenti possono essere fatti. Di sicuro c'è ancora moltissimo pessimismo che galleggia nell'aria, ci sono grandissimi problemi, ci stiamo muovendo molto lentamente, la Cina e l'India tendono a rallentare il procedimento, ha detto Sarkozy poche ore fa. Barack Obama è arrivato accompagnato da uno staff ristretto ma assai qualitativo, Valerie Jarrett, una delle sue principali consulenti al suo fianco, Robert Gibbs, il suo comunicatore, e il suo consulente per la sicurezza nazionale Jim Jones. Incontrerà Wen Jiabao a momenti nel Bella Center, saranno incontri ristretti, probabilmente verranno lasciati a parte gli incontri più allargati, perché, come ha detto un altro addetto ai lavori dello staff indiano, la situazione è veramente disperata, non c'è ancora accordo, non c'è neanche accordo su come chiamare quel testo che alla fine produrremo, se sarà una dichiarazione o un intento o come diavolo lo si voglia chiamare, testuali parole di questo signore. Le nazioni ricche, ha detto ancora, vogliono piegare il più possibile naturalmente il documento ai propri interessi. È questione di ore e vedremo da questo lungo summit che cosa quelli che ci hanno lavorato e su cui le argomentazioni si sono scontrati, che cosa riusciranno a produrre. You have insurance, it's fine to say kill this bill, but or if you have a good relation, you're healthy. Noi non abbiamo mai nascosto di avere un debole proprio una simpatia, insomma, uno slancio nei confronti di questo personaggio che si chiama David Axelrod, è lo stratega di Obama e continua a esserlo anche se un po' più nell'ombra che durante la campagna elettorale, e ha avuto un'altra delle sue meravigliose, impagabili uscite. Invece ci stiamo spostando a parlare di politica interna americana, sostenendo che è molto molto molto molto pericoloso kill the bill, facendo naturalmente il verso al ben noto film di Quentin Tarantino. Se noi spariamo sul progetto di legge sulla sanità, perché di questo stiamo parlando, potrebbe essere un disastro di dimensioni epocali. Obama ci ha messo il carico da 12, ha detto che il governo andrà in bancarotta se il Congresso non approverà la riforma sanitaria. La riforma, secondo lui, è il modo migliore per impedire che i costi delle spese sanitarie finiscano col consumare l'intero bilancio federale. In un certo senso adesso rimanda, no, al mittente l'accusa di preparare a eccessive spese l'amministrazione americana, dicendo che guardate che sono proprio i programmi Medicare e Medicaid, quello in aiuto degli anziani e dei poveri, avviati verso quella che ha definito una parabola insostenibile, e un intervento per ridurli è necessario, altrimenti saranno guai, sarà bancarotta. Naturalmente per lui l'intervento è quello a cui sta lavorando ormai da settimane con il progetto, di cui però si viene a sapere oggi che è assai difficile che si riesca a sottoporre al voto prima di Natale, dal momento che ancora all'interno del Partito Democratico ci sono altre disordini, altre insubordinazioni. L'ultimo è stato il democratico del Nebraska Ben Nelson, che ha detto che la parte che riguarda l'aborto e l'eventuale sovvenzionamento di procedure di aborto non lo convince affatto per come è espressa, che desidera rimetterci, che ci venga rimessa mano, altrimenti il suo voto non arriverà. Quindi grande il disordine sotto il cielo a Copenaghen, ma anche a Washington non stanno meglio. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Buongiorno America. Una inconfondibile cornetta, lo sapete, il venerdì ci occupiamo essenzialmente di spettacolo, di consumi culturali americani in vista del weekend, tanto più natalizio. Oggi lo facciamo un po' più in fretta perché era indispensabile comunque dare un'occhiata ai fatti in via di svolgimento proprio in queste ore nelle grandi capitali, ma alcune segnalazioni ve le vogliamo fare, e la prima riguarda proprio il titolare della cornetta in questione, che poi altri non è. Ve l'abbiamo fatto sentire anche prima, no? Louis Armstrong, cantante ma soprattutto trombettista, e poi si dice praticamente inventore del jazz per quella che consideriamo la sua formula originale, però anche personaggio molto discusso di qua e di là dall'oceano, tra il pubblico e soprattutto tra gli addetti ai lavori, perché insomma l'accusa che gli è stata più volte addebitata è di essere stato in un certo certo senso un po' un giullare del jazz, no? Una persona con grandi capacità, ma che molto presto si era messo al servizio del mercato. Esce una bellissima biografia che lo riguarda, si chiama The Entertainer, l'intrattenitore, scritto da John McWhorter, che è un molto molto molto rispettabile sociologo americano, giovane sociologo americano, e ricostruisce la parabola di Louis Armstrong in modo sofisticato, ovvero restando sempre al di là dei luoghi comuni, no? del jazzista che non si era mai evoluto, ma andando invece a cercare piuttosto le motivazioni sia psicologiche che caratteriali. Un ragazzo con una adolescenza durissima e poi anche con un carattere assai particolare e un gusto al tempo stesso malinconico ma anche un po' provocatorio di fare il buffone sul palco. Non era forse soltanto il servo dei bianchi, come lo accusava di essere Miles Davis. Quindi The Entertainer, John McWhorter, per una biografia di Louis Armstrong. I don't work in terms of conscious messages. I can't do that. It has to be... Questo è un altro libro appena uscito per cultori assoluti, vi deve piacere naturalmente il fumetto americano, nella fattispecie quello anni 60-70, alternativo, con venato di psichedelia, insomma in una parola Robert Crumb, il più grande di tutti, se me la passate, almeno di quell'epoca. Ebbene, è uscita un'opera tra le più provocatorie che Crumb potesse mai mandare in libreria, perché ha disegnato in bianco e nero con una Eva con dei seni straordinariamente procaci, anche molto, molto tentatori giustamente, e un serpente che è un formidabile speculatore, un uomo che pensa, ragiona, no, il divario è sempre tentare o essere tentati, insomma il libro della Genesi nella versione di Robert Crumb. È una uscita per naturalmente gli amanti del fumetto americano, mentre per gli amanti dell'America dal punto di vista di quel complicato scenario che è la celebrità, no, di cui abbiamo parlato anche recentemente, esce una ricostruzione del caso Lewinsky, a cui va dedicata certamente attenzione anche per la corposità del trattamento. Sono quasi 800 pagine, che un altro accademico, si chiama Ken Gormley, con il titolo The Death of American Virtue, ovvero la morte della virtù americana, dedica a Monica Lewinsky, alla storia che toccò il 42esimo presidente degli Stati Uniti d'America, Bill Clinton, e a tutte le nuove verità che emergono, e la lettura è certamente di grande interesse. Questa musichetta non porta niente di buono in realtà, ma porta però una lista che ci piace citare fra le mille liste pubblicate dai periodici, dai settimanali americani, perché finisce un anno ma finisce anche un decennio, e una lista che ha attirato la nostra attenzione, che vogliamo rapidamente leggervi, è pubblicata da Newsweek e mette in fila, non è naturalmente una classifica, ce ne mancherebbe altro, ma mette in fila 10 persone che sono morte troppo giovani tra negli scenari mondiali, ma che hanno impressionato naturalmente in particolare il pubblico americano. Ve la leggo rapidamente, vi potrà tornare alla mente qualcosa. Per esempio il professore Randy Pausch, di cui parlammo a lungo qui a Radio 24 quando c'era Jefferson, quel professore di scienza dei computer che se ne andò con quella famosa last lecture, l'ultima lezione, che io vi invito sempre a andarvi a guardare, perché parla di vita, non parla di computer, e lo fa in modo straordinario. Il suo nome è Randy Pausch, ma si scrive P-A-U-S-C-H, cercate l'ultima lezione del professor Porsche. Poi Tim Russert, il più grande conduttore di talk show politici americani, che è morto nel 2008. Poi Bernie Mac, la grande promessa della comicità americana, un comico afroamericano, morto anch'egli nello stesso anno. Poi la voce, la titolare della voce, sentite qua sotto, si chiamava Aaliyah ed era considerata la grande promessa della soul music, morta a soli 22 anni, e ricordata peraltro da uno struggente articolo su Newsweek firmato da Timbaland. E poi Dale Earnhardt, che è stato il più grande corridore di quelle strane corse in macchina che si chiamano NASCAR, che fanno gli americani, no, sugli anelli dei loro dei loro sparsi nelle città più dedicate ai motori, no, d'America. Poi David Foster Wallace, morto nel 2008, anche egli assai giovane, 46 anni, suicida. Tra l'altro c'è un bellissimo racconto infantile dedicato alla sua infanzia, David Foster Wallace, l'ultimo numero del New Yorker. Poi Benazir Bhutto, la donna che stava ridando la speranza al Pakistan, uccisa in un attentato mentre probabilmente si è tolto la vita. Heath Ledger, l'attore neanche trentenne, che è passato poi con la sua postuma interpretazione di Batman a una gloria così molto, molto effimera. Poi Neda, naturalmente, la ragazza uccisa per le strade durante le proteste contro la gestione iraniana. E infine Pat Tillman, il grande giocatore di football americano professionistico, che scelse di rinunciare ai soldi e alla gloria dello sport per andare in Iraq e morire in modo anche stupido, no? Ucciso dal cosiddetto fuoco amico. Ragazzi e ragazze che se ne sono andate troppo presto. Buongiorno America, scusate la voce, quello che resta della mia voce. Sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, la parte tecnica a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Carmelo Lauricella, la mail è buongiornoamerica@radio24.it, la pagina Facebook è redazione Jefferson 3, la replica a mezzanotte, dopo mezzanotte invece la diretta arriva lunedì dopo l'1:30 qui da Radio 24. State tutti bene.